Bianco foderato di rosso sangue, con un'andatura strascicata da cavaliere, la mattina presto del giorno 14 del mese primaverile di Nissan, nel colonnato coperto tra le due ali del palazzo di Erode il Grande, uscì il procuratore della Giudea, Ponzio Pilato. Più di ogni cosa al mondo il procuratore odiava l'odore dell'olio di rose e ora tutto lasciava presagire una brutta giornata, poiché questo odore aveva cominciato a perseguitarlo fin dall'alba. Al procuratore pareva che odore di rose emanassero i cipressi e le palme del giardino, che all'odore del cuoio e della scorta si mescolasse quel maledetto effluvio di rose. Dai padiglioni sul retro del palazzo, dove era quartierata la prima coorte della 12ª legione giunta a Gerusalemme, insieme al procuratore proveniva del fumo, e a quel fumo si mischiava sempre quello stesso denso profumo di rose. Sì, non ci sono dubbi, è lei, ancora lei, l'invincibile, atroce malattia, l'emicrania, che tortura metà del capo. Contro di lei non ci sono rimedi, non c'è scampo. Proverò a non muovere la testa. Sul pavimento a mosaico presso la fontana era già pronto un seggio, e il procuratore, senza guardar nessuno, vi sedette e tese la mano da un lato. In questa mano il segretario pose rispettosamente un pezzo di pergamena. Senza trattenere una smorfia di dolore, il procuratore diede una scorsa allo scritto con la coda dell'occhio e restituì la pergamena al segretario, proferendo a fatica: l'imputato è Galileo, avete sottoposto la causa al tetrarca? Sì, procuratore, rispose il segretario. E lui ha rifiutato di pronunciare una sentenza sul caso e ha demandato una tua approvazione la condanna a morte nel sinedrio, spiegò il segretario. Il procuratore ebbe una contrazione alla guancia e disse piano: conducete l'imputato. Subito dal giardino pensile due legionari condussero sotto le colonne del portico e fecero fermare davanti al seggio del procuratore un uomo di circa 27 anni. L'uomo indossava un chitone azzurro piuttosto vecchio e logoro. Il suo capo era coperto da una fascia bianca stretto attorno alla fronte da una cinghietta e le mani erano legate dietro la schiena. Sotto l'occhio sinistro l'uomo aveva un grosso livido, a un angolo della bocca un'escorazione con del sangue rappreso. Pilato domandò piano, in aramaico: dunque sei tu che incitavi il popolo a distruggere il tempio di Gerusalemme? Il procuratore, nel dir questo, sedeva come impietrito e soltanto le sue labbra si muovevano appena nel pronunciare le parole. Il procuratore era come impietrito perché temeva di muovere la testa bruciante di un dolore infernale. L'uomo, dalle mani legate, si fece un po' avanti e cominciò a parlare. Buon signore, credimi, ma il procuratore, sempre immobile, senza alzare la voce, subito lo interruppe. È me che chiami buono? Non ti sbagli, a Gerusalemme tutti mormorano che sono un mostro crudele, ed è la pura verità. E con voce altrettanto monotona aggiunse: chiamatemi il centurione Muribellum. A tutti parve che sulla terrazza calasse il buio, quando il centurione Marco, soprannominato Muribellum, comandante di una centuria speciale, comparve dinanzi al procuratore. Muribellum sovrastava di tutta la testa il più alto soldato della legione ed era così largo di spalle che nascose completamente il sole ancora basso. Il procuratore si rivolse al centurione in latino. «Questo delinquente mi chiama buon signore, conducilo via per un attimo e spiegagli come bisogna parlare con me, ma senza rovinarlo». E tutti, tranne il procuratore immobile, seguirono con lo sguardo Marco Muribellum, che fece un cenno all'arrestato, intimandogli di seguirlo. In genere tutti seguivano Muribellum con lo sguardo, ovunque egli apparisse, per via della statura, soprattutto quelli che lo vedevano per la prima volta, perché il viso del centurione era sfigurato. Il naso gli era stato fracassato da un colpo di clava germanica. I pesanti calzari di Marco risuonarono sul mosaico. L'uomo legato lo seguì senza far rumore. Nel colonnato scese un silenzio assoluto e si sentivano i colombi tubare sulla terrazza del giardino presso il portico e l'acqua cantare un'arzigogolata e dolce canzone nella fontana. Condotto l'arrestato dal colonnato al giardino, Muribellum tolse una frusta dalle mani di un legionario e, prendendo appena lo slancio, colpì l'arrestato sulle spalle. Il movimento del centurione era stato noncurante e leggero, ma il prigioniero s'accasciò immediatamente a terra, come se gli avessero falciato le gambe. Boccheggiò, il suo volto trascolorò e gli occhi si fecero inespressivi. Con la sola mano sinistra, facilmente, come fosse un sacco vuoto, Marco sollevò in aria il caduto, lo rimise in piedi e disse con voce nasale, pronunciando male le parole aramaiche: «Il procuratore romano va chiamato egemone. Niente altre parole, stare sull'attenti. Mi hai capito o ci vuole un altro colpo?» L'arrestato barcollò, ma riuscì a dominarsi. Il colore tornò, riprese fiato e rispose con voce rauca: «Ti ho capito. Non picchiarmi». Un minuto dopo stava di nuovo davanti al procuratore. Si sentì una voce opaca, malata. «Nome?» «Il mio», rispose in fretta l'arrestato, esprimendo con tutta la sua persona il desiderio di rispondere assennatamente, di non suscitare più ira. Il procuratore disse piano: «Il mio lo so. Non fingerti più stupido di quello che sei. Il tuo». «Yoshua», rispose rapido il prigioniero. «Hai un soprannome?» «A Nosri». «E dove sei?» «Della città di Gamala», rispose, e indicò col capo che lassù, a nord, in un punto lontano alla sua destra, c'era la città di Gamala. «Di che stirpe sei?» «Non lo so di preciso, non ricordo i miei genitori. Mi hanno detto che mio padre era siriano». «Dove abiti?» «Non ho una dimora fissa», rispose timidamente. «Viaggio da una città all'altra». «Perché tante parole, ne bastava una, vagabondo», disse il procuratore. «Hai parenti?» «A nessuno, sono solo al mondo». «Sai leggere e scrivere?» «Sì». «Sai qualche altra lingua oltre l'aramaico?» «Sì, il greco». Una palpebra enfiata si sollevò. Un occhio annebbiato dalla sofferenza si fissò sull'arrestato. L'altro occhio rimase schiuso. Pilato prese a parlare greco. «Dunque ti accingevi a distruggere il tempio e istigavi il popolo a farlo?» Qui l'arrestato si rianimò, i suoi occhi non esprimevano più paura e cominciò a parlare in greco. «Io, buon...» Il terrore balenò negli occhi dell'arrestato, perché per poco non si era sbagliato. «Io, egemone, in vita mia non ho mai pensato di distruggere il tempio. E non ho mai incitato nessuno a questa azione dissennata». Lo stupore si dipinse sul viso del segretario, ingobbito sul tavolino basso e intento a registrare la deposizione. Sollevò il capo, ma subito lo chinò di nuovo sulla pergamena. Una moltitudine di gente diversa affluisce in questa città per la festa. Fra questa ci sono maghi, astrologi, indovini, assassini, diceva il procuratore con voce monotona. E capitano anche dei mentitori. Tu, per esempio, sei un mentitore. È scritto chiaramente, incitava a distruggere il tempio. Così testimonia la gente. Questa buona gente, disse l'arrestato, non ha studiato. E ha confuso tutto ciò che io ho detto. E comincio a tenere che questa confusione continuerà per moltissimo tempo. E tutto perché lui non trascrive fedelmente le mie parole. Ormai tutti e due gli occhi malati del procuratore guardavano pesantemente l'arrestato. Ti ripeto per l'ultima volta, smettila di fingerti pazzo, pronunciò Pilato con voce morbida e monotona. Poche delle tue parole sono state trascritte, ma ce n'è abbastanza per farti appendere a un palo. No. No, egemone, disse l'arrestato, tutto teso nello sforzo di convincere. C'è uno che mi segue con una pergamena di capra e scrive in continuazione. Ma una volta ho dato un'occhiata a questa pergamena e io sono inorridito, io non ho detto assolutamente nulla di quello che sta scritto lì. L'ho supplicato, brucia per l'amor di Dio la tua pergamena, ma lui me l'ha strappata di mano ed è fuggito. Lui chi? Chiese Pilato. E si toccò la tempia con la mano. Levi Matteo, spiegò l'arrestato. Era un pubblicano. L'ho incontrato per la prima volta sulla strada di Betopage, dove costeggia il giardino dei fichi, e mi sono messo a parlare con lui. Sulle prime mi trattava ostilmente, mi offendeva persino, cioè pensava di offendermi chiamandomi cane. Personalmente non trovo nulla di male in questa bestia per dovermi offendere di questa parola. Il segretario smise di scrivere e di sottecchi lanciò uno sguardo stupito, ma non all'arrestato, bensì al procuratore. Però quando mi ebbe ascoltato, si raddolcì, continuò Yoshua, e alla fine gettò i soldi sulla strada e disse che avrebbe viaggiato con me. Pilato fece un sorrisetto con una sola guancia, mostrando i denti gialli. Ed esclamò, «Oh, città di Gerusalemme, a cosa non vi si sente? Un pubblicano, udite udite, ha gettato i soldi per la strada». Disse che i soldi da quel momento gli erano divenuti odiosi, precisava Yoshua, e da quel giorno è diventato mio compagno di viaggio. Continuando a sorridere, il procuratore guardò l'arrestato, mentre il sole si alzava inesorabilmente, e all'improvviso, con una sorta di nauseante tormento, pensò che la cosa più semplice sarebbe stata scacciare dal portico quello strano furfante, pronunciando una sola parola, giustiziatelo, e scacciare anche la scorta, lasciare il colonnato per entrare nel palazzo, ordinare di oscurare la stanza, abbandonarci sul letto, chiedere dell'acqua fresca, chiamare con voce lamentosa il suo cane Bangà e dolersi con lui dell'emicrania. E all'improvviso, nella testa malata del procuratore balenò allettante l'idea del veleno. Ashira laduna ikigauka susvero cura mabaya. Egli guardò con occhi torbidi l'arrestato e tacque per un po', cercando dolorosamente di ricordare perché nell'implacabile solleone del mattino di Gerusalemme dinanzi a lui stesse quell'arrestato dal viso deturpato dalle percosse, e quali altre domande assolutamente inutili gli sarebbe toccato rivolgergli. Levi Matteo? Domandò il malato con voce rauca e chiuse gli occhi. Sì, Levi Matteo, diceva la voce acuta che lo torturava. E comunque, cosa hai detto alla folla del mercato a proposito del tempio? La voce dell'interrogato pareva trafiggere la tempia di Pilato. Era una tortura indicibile e questa voce diceva: «Io, egemone, dicevo che sarebbe crollato il tempio della vecchia fede e sarebbe sorto il nuovo tempio della verità. Ho detto così perché fosse più comprensibile». «Perché, vagabondo, turbavi il popolo al mercato parlando di una verità di cui non hai alcuna idea? Cos'è la verità?» E qui il procuratore pensò: «Ah, santi nomi, gli faccio domande inutili ai fini del processo. La mia intelligenza non mi obbedisce più!» E di nuovo ebbe visione di una coppa di liquido scuro. «Veleno! Datemi del veleno!» pensava tra di sé. Ma di nuovo sentì la voce. «La verità, innanzitutto, è che ti fa male la testa e ti fa tanto male che vilmente pensi alla morte. Non solo non hai la forza di parlare con me, ma fai persino fatica a guardarmi. E adesso, senza volerlo, io sono il tuo boia, il che mi addolora. Tu non riesci a pensare a niente e sogni soltanto che arrivi il tuo cane, evidentemente l'unica creatura a cui tu sia affezionato. Ma i tuoi tormenti ora finiranno e il mal di testa passerà». Il segretario puntò gli occhi sbarrati sull'arrestato e lasciò una parola a metà. Pilato levò gli occhi da martire sull'arrestato e vide che il sole era già piuttosto alto, che un raggio era penetrato nel colonnato e strisciava verso i sandali scalcagnati di Yeshua e che questi si scostava dal sole. Allora il procuratore si alzò dal seggio, si strinse il capo fra le mani e sul suo volto giallognolo, ben rasato, si dipinse il terrore. Ma subito egli lo dominò con uno sforzo di volontà e si risedette sul seggio. L'arrestato nel frattempo continuava il suo discorso, ma il segretario non scriveva più nulla e, allungando il collo come un'oca, cercava solo di non perdere neanche una parola. «Ti consiglierei, egemone», diceva l'arrestato, «di lasciare per un po' il palazzo e di andare a passeggiare da qualche parte, nei dintorni, magari nei giardini del Monte Oliveto. Il temporale comincerà», e l'arrestato si voltò, socchiuse gli occhi guardando il sole, «più tardi, verso sera. La passeggiata ti farebbe molto bene e io ti accompagnerei volentieri. Mi sono venute in mente delle nuove idee che credo potrebbero parere interessanti e te le comunicherei volentieri, tanto più che dai l'impressione di essere un uomo molto intelligente». Il segretario impallidì mortalmente e lasciò cadere a terra il rotolo. «Il guaio è», continuava il prigioniero, senza che nessuno lo fermasse, «che tu sei troppo chiuso. Hai perso definitivamente la fede negli uomini. Ma non si può, conviene, riporre tutto il proprio affetto in un cane. La tua vita è povera, egemone». E qui si permise di sorridere. Il segretario ora pensava a una cosa sola: se dovesse credere o no alle proprie orecchie. Ma bisognava credere. Allora cercò di immaginare in che forma capricciosa si sarebbe sfogata la collera dell'irascibile procuratore di fronte alla inaudita sfrontatezza dell'arrestato. Fu allora che risuonò la voce malcerta e rauca del procuratore, che diceva in latino: «Slegategli le mani!» Uno dei legionari della scorta si avvicinò e tolse le corde all'arrestato. Il segretario raccolse il rotolo e decise per il momento di non scrivere nulla e di non stupirsi di nulla. Confessa, domandò piano Pilato in greco. Sei un grande medico. No, procuratore, non sono un medico, rispose l'arrestato, sfregandosi la mano paonazza, pesta ed enfiata. Pilato trafisse con gli occhi l'arrestato e questi occhi non erano più torbidi. In essi erano apparse le scintille ben note a tutti. Non ti ho chiesto, disse Pilato, se per caso sai anche il latino. Sì, lo so, rispose l'arrestato. Le guance giallognole di Pilato si colorirono ed egli domandò il latino. Come hai fatto a sapere che volevo chiamare il mio cane? Ah, è semplicissimo, rispose l'arrestato in latino. Hai fatto un gesto in aria come per fare una carezza e le tue labbra... Allora Pilato domandò in greco. Sei un medico? No, rispose nitidamente il prigioniero. Credimi, io non sono un medico. E va bene, se vuoi tenerlo segreto tienilo pure. Dunque tu affermi di non aver incitato a distruggere o incendiare o annientare il tempio in qualsiasi altro modo? Io, egemone, non ho incitato nessuno a simili azioni. Sembro forse un mentecatto? No, non sembri un mentecatto. E sorrise in un certo modo agghiacciante. Giura che non è vero. Su cosa vuoi che te lo giuri? Domandò l'arrestato. Beh, magari sulla tua vita, rispose il procuratore, su cui è proprio il momento di giurare, visto che ora è appeso a un filo. Non penserai mica, egemone, di essere stato tu ad appendervela. Se è così, ti sbagli, disse l'arrestato. Pilato trasalì e rispose fra i denti. Io posso spezzare quel filo. Anche qui ti sbagli, replicò l'arrestato con un sorriso luminoso. Ammetti che il filo probabilmente lo può tagliare solo chi l'ha appeso. Pilato rispose sorridendo. Ora non ho più dubbi che gli sfaccendati di Gerusalemme seguissero ogni tuo passo. Non so chi ti abbia appeso la lingua, ma è appesa bene. A proposito, dimmi, è vero che sei entrato in Gerusalemme per la porta di Susa cavalcando un asino accompagnato da turbe di plebe che ti salutavano a gran voce come un profeta? Io non ce l'ho neanche l'asino, egemone, disse l'arrestato. Sono arrivato sia a Gerusalemme per la porta di Susa, ma a piedi, in compagnia del solo Levi Matteo, e nessuno mi ha gridato nulla perché nessuno allora mi conosceva a Gerusalemme. Non conosci per caso, continuò Pilato senza distogliere lo sguardo, certi Dismas, Escas o un certo Barrabban? Non conosco questa buona gente, rispose l'arrestato. Ma perché continui a usare la parola buona gente? Chiami tutti così? Tutti, rispose l'arrestato, al mondo non c'è gente cattiva. È la prima volta che sento una cosa del genere, disse Pilato, sogghignando, ma forse conosco poco la vita. D'ora innanzi non occorre che tu scriva, disse al segretario, e poi continuò a parlare all'arrestato. L'hai letto in qualche libro greco? No, ci sono arrivato da solo. Lo predichi? Sì. Ma prendi per esempio il centurione Marco, che hanno soprannominato Muribellum. È buono? Sì, rispose l'arrestato. È vero, sì. È un uomo infelice. Da quando della buona gente l'ha sfigurato, è diventato crudele e duro. Sarebbe interessante sapere chi l'ha rovinato, e te lo posso rivelare volentieri, rispose Pilato, poiché ne sono stato testimone. Quella buona gente gli si gettò addosso come un branco di cani su un orso. I germani gli si attaccarono al collo, alle braccia, alle gambe. Un manipolo di fanteria era caduto in un'imboscata, e se una torma di cavalieri non si fosse incuneata nel fianco, e la comandavo io, a te, filosofo, non sarebbe toccata mai quella conversazione con Muribellum. fu nella battaglia di Staviso, nella Valle delle Vergini. Se gli si potesse parlare, d'un tratto disse sognatamente l'arrestato, io sono certo che lui cambierebbe parere. Credo, replicò Pilato, che non faresti molto piacere al legato della legione se ti saltasse in mente di chiacchierare con qualcuno dei suoi ufficiali o soldati. Del resto, fortunatamente per tutti, ciò non accadrà. E il primo che se ne renderà garante sarò io. La testa ora limpida e leggera del procuratore si era venuta elaborando una formula e suonava così. L'egemone ha esaminato la causa del filosofo errante Yoshua, soprannominato Anosri, senza riscontrarvi gli estremi del reato. In particolare, non ha riscontrato il minimo rapporto fra le azioni di Yoshua e i disordini verificatisi recentemente a Gerusalemme. Il filosofo errante è risultato malato di mente. Di conseguenza, il procuratore non conferma la condanna a morte di Anosri emanata dal Sinedrio minore, ma in considerazione del fatto che i discorsi folli e utopistici di Anosri possono essere causa di agitazione a Gerusalemme, il procuratore allontana Yoshua dalla città e lo condanna al confino a Cesarea sul Mar Mediterraneo, cioè proprio nella località di residenza del procuratore. Non restava che dettarlo al segretario. Di una rondine frullarono proprio sopra la testa dell'egemone. L'uccello si slanciò verso la pila della fontana e volò fuori. Il procuratore levò gli occhi sull'arrestato e vide che accanto a lui ardeva una colonna di pulviscolo. «È tutto?» chiese Pilato. «No, purtroppo», disse il segretario e porse a Pilato un altro pezzo di pergamena. «Ma che c'è ancora?» disse Pilato e si accigliò. Quando ebbe letto il documento, il suo viso mutò ancor di più. Forse il sangue scuro gli era fluito al collo e al viso, oppure era avvenuto qualcos'altro, perché la sua pelle perse il colore giallognolo, si fece bruna e gli occhi sembrarono infossarsi. Di nuovo la colpa era probabilmente del sangue affluito alle tempie e pulsante in esse, ma il procuratore ebbe dei disturbi alla vista e così gli parve che la testa dell'arrestato fosse volata via e al suo posto ne fosse apparsa un'altra. Su questa testa calva era posta una corona d'oro con poche punte. Sulla fronte c'era una piaga rotonda spalmata d'unguento che corrodeva la pelle. la bocca sdentata, infossata, col labbro inferiore pendente e capriccioso. A Pilato sembrò che fossero scomparse le colonne in rosato del portico e i tetti di Gerusalemme in lontananza, giù oltre il giardino, e tutto intorno fosse sprofondato nella fittissima vegetazione dei giardini capresi. Anche all'udito era accaduto qualcosa di strano, come se suonassero piano e minacciose delle trombe lontano e molto distintamente si sentisse una voce nasale strascicare con alterigia le parole «Legge sulla lesa maestà!». Volarono brevi pensieri, slegati, insoliti. «Sono perduto!» e poi «Siamo perduti!». E fra gli altri, uno del tutto assurdo, che in quella immortalità dovesse assolutamente esistere una qualche immortalità. E perché? E l'immortalità, chissà perché, gli provocava un'insopportabile angoscia. Pilato raccolse le forze, cacciò la visione e di nuovo si trovò davanti agli occhi l'arrestato. «Ascolta, Nosri», riprese il procuratore. Il suo viso era minaccioso, ma gli occhi inquieti. «Hai mai detto qualcosa a proposito del grande Cesare? L'hai detto oppure non l'hai detto?» Pilato strascicò la parola «non» un po' più di quanto si convenga a un interrogatorio e il suo sguardo parve voler inviare un messaggio a Josua. «Dire la verità è facile». «È grato», osservò l'arrestato. «Non mi interessa!» Con voce strozzata e cattiva replicò Pilato. «Se ti è grato o ingrato dire la verità, ti toccherà dirla. Però, dicendola, soppesa ogni parola, se non vuoi una morte atroce, oltre che inevitabile». Nessuno sa cosa accadde al procuratore della Giudea, ma egli si permise di alzare una mano come per ripararsi da un raggio di sole ed inviare, facendosi scudo con questa mano, un'occhiata d'intesa all'arrestato. «Dunque, rispondimi, conosci un certo Giuda di Cherod? E cosa gli hai detto esattamente, se mai gli hai detto qualche cosa a proposito di Cesare?» «È andata così», cominciò l'arrestato. «L'altro ieri sera ho conosciuto vicino al tempio un giovane che ha detto di chiamarsi Giuda della città di Cherod. Egli mi ha invitato a casa sua nella città bassa e mi ha dato da mangiare». «Un uomo buono?» domandò Pilato, con una fiamma demoniaca che guizzava nei suoi occhi. «Un uomo molto buono e avido di sapere», confermò l'arrestato. «Manifestò il massimo interesse per le mie idee, mi accolse assai cordialmente». «Accese le lampade, eh?» E Pilato fra i denti fece il verso all'arrestato mentre i suoi occhi scintillavano. «Sì», continuò Josua, un po' stupito che il procuratore fosse così ben informato. «Mi chiese di esprimergli il mio parere sul potere statale. Il problema lo interessava moltissimo». «E tu cosa gli dicesti?» domandò Pilato. «O risponderai che te ne sei dimenticato?» Ma nel tono di Pilato c'era ormai la disperazione. «Fra l'altro gli dissi», raccontava l'arrestato, «che ogni potere è violenza sugli uomini e che verrà il tempo in cui non ci sarà né il potere dei Cesari, né alcun altro potere. L'uomo entrerà nel regno della verità e della giustizia, dove non ci sarà bisogno di alcun potere». E poi basta», disse l'arrestato. A questo punto però irruppero degli uomini, mi legarono e mi portarono in prigione. Il segretario, cercando di non perdere una parola, scriveva rapido sulla pergamena. «Al mondo non c'è mai stato, non c'è, non ci sarà mai un potere più grande e magnifico per gli uomini del potere dell'imperatore Tiberio!» La voce malcerta e malata di Pilato cresceva. «E non spetta a te, pazzo criminale, giudicarlo! Portate fuori la scorta!» E voltatosi verso il segretario aggiunse: «Lasciatemi solo con questo malfattore, è un affare di Stato». I soldati della scorta levarono le lance e, battendo ritmicamente le calinghe chiodate, uscirono in giardino e dietro la scorta uscì anche il segretario. Per qualche tempo il silenzio del portico fu turbato solo dall'acqua della fontana. Per primo parlò l'arrestato. «Vedo che è accaduto qualche guaio, perché ho parlato con quel ragazzo di Cheirot. Io, egemone, ho il presentimento che gli accadrà una disgrazia e mi fa molta compassione». «Io penso», rispose il procuratore con uno strano sogghigno, «che c'è qualcun altro al mondo che dovrebbe farti più compassione di Giuda di Cheirot e a cui toccherà una sorte ben peggiore della sua». E così Marco Moribellum, boia freddo e convinto, la gente che, come vedo, e il procuratore indicò il volto sfigurato di Joshua, ti ha picchiato per le tue prediche, i briganti di Dismas ed Estas che hanno ammazzato coi loro compari 4 soldati e infine lo sporco traditore di Giuda, sono tutti buona gente. Sì, rispose l'arrestato. E verrà il regno della verità. Verrà, egemone, rispose convinto Joshua. Non verrà mai, gridò improvvisamente Pilato con una voce così tremenda che Joshua fece un passo indietro. Ma poi, abbassando la voce, domandò: Joshua Nosri, tu credi negli dèi? Dio è uno, rispose Joshua. In lui io credo. Ebbene, pregalo, prega con insistenza, del resto non servirà. Non hai moglie? Chiese Pilato come malinconico. No, sono solo. Città odiosa, borbottò il procuratore. Le spalle gli sussultarono come se avesse i brividi e si fregò le mani come per lavarsele. Se ti avessero assassinato prima del tuo incontro con Giuda di Cheirot, davvero sarebbe stato molto meglio. Ma tu perché non mi lasci andare, egemone? Chiese inaspettatamente l'arrestato. E la sua voce si era fatta inquieta. Vedo che vogliono uccidermi. Il viso di Pilato fu deformato da uno spasimo. Egli volse a Joshua i suoi occhi infiammanti. Tu credi, disgraziato, che il procuratore romano lascia libero un uomo che ha detto quello che hai detto tu? Oppure pensi che io sia pronto a prendere il tuo posto? Io non condivido le tue idee e ascoltami. Se da questo momento pronuncerai anche una sola parola, se parlerai con qualcuno, guardati da me. Te lo ripeto, guardati. Egemone, silenzio! Disse Pilato e accompagnò con uno sguardo furioso la rondine che di nuovo era volata nel portico. A me! Gridò Pilato. E quando il segretario e la scorta furono tornati ai loro posti, Pilato annunciò che confermava la sentenza di morte pronunciata dall'assemblea del Sinedrio Minore contro il criminale Joshua Nosri. E il segretario mise a verbale il verdetto di Pilato. Uskubara giderken aldıda bir yağmur Uskubara giderken aldıda bir yağmur Katibenin katibin yeriye yarışı Katibime kolay minuto dopo stava davanti al procuratore Marco Muribellum. Il procuratore gli ordinò di consegnare il criminale al capo del servizio segreto e contemporaneamente trasmettergli la sua disposizione che Joshua Hanosri fosse separato dagli altri condannati e che fosse vietato nel modo più assoluto, pena grave sanzioni, di parlare con Joshua o rispondere alle sue domande. Ad un segno di Marco, la scorta si richiuse intorno a Joshua e lo condusse via dal portico. Dopodiché, davanti al procuratore, si presentò un bell'uomo slanciato dalla barba bionda, con delle teste di leone luccicanti sul petto e un mantello purpureo gettato sulla spalla. Era il legato che comandava la legione. Al procuratore diede ordine che il legato distaccasse 2 centurie della coorte romana. Una, comandata da Muribellum, avrebbe dovuto scortare i condannati, i carri con gli strumenti per l'esecuzione e i boia fino al Golgota. E una volta giunti lì, circondarne la cima. L'altra doveva essere mandata immediatamente sul Golgota e cominciare subito l'accerchiamento. A questo stesso scopo, cioè per il presidio del monte, il procuratore chiese al legato di mandare un reparto ausiliario di cavalleria, la coorte alaria siriana. Poi ordinò al segretario di invitare al palazzo il presidente del Sinedrio con altri 2 membri e il comandante della guardia del Tempio di Gerusalemme e di poter parlare da solo con il presidente. Gli ordini del procuratore furono eseguiti con efficienza e precisione. E il sole, che in quei giorni bruciava Gerusalemme con insolito accanimento, non si era ancora avvicinato al suo punto più alto, quando nel giardino pensile presso i 2 leoni di marmo bianco posti a guardia della scalinata si incontrarono il procuratore e il presidente in carica del Sinedrio, il sommo sacerdote giudeo, Iosif Caifa. Il giardino era silenzioso, ma uscendo dal colonnato sulla terrazza superiore del giardino, inondata dal sole, col suo udito acuto, il procuratore colse lontano e in basso un sordo mormorio sul quale si staccavano di tanto in tanto deboli, acuti gemiti o forse grida. Il procuratore capì che là in piazza c'era radunata una folla immensa di abitanti di Gerusalemme, agitati dai recenti disordini, che questa folla aspettava con impazienza di udire la sentenza e che lì in mezzo gridavano inquieti gli acquaioli. Il procuratore cominciò con l'invitare il sommo sacerdote a ripararsi dall'afa implacabile sotto il portico, ma Caifa si scusò cortesemente e spiegò che non poteva farlo. Pilato si gettò il cappuccio sulla testa, un po' stempiata, e cominciò a parlare. La conversazione si svolse in greco. Pilato disse che aveva esaminato il caso di Joshua Hanosri e aveva confermato la condanna a morte. In tal modo, all'esecuzione capitale che doveva aver luogo quel giorno erano condannati 3 ladroni, Dismas, Estas, Barabban, più quel Joshua Hanosri. I primi 2 che avevano osato sobillare il popolo alla rivolta contro Cesare, presi in combattimento dalle autorità romane, erano di competenza del procuratore e di conseguenza non era il caso di parlarne. Gli altri 2 invece, Barabban e Hanosri, erano stati arrestati dalle autorità locali e giudicati dal Sinedrio. Secondo la legge, secondo la consuetudine, si sarebbe dovuto liberare 1 di questi malfattori in onore della grande festa della Pasqua che cominciava quel giorno. Dunque, il procuratore desiderava sapere quale dei due malfattori avesse intenzione di liberare il Sinedrio, Barabban o Anosri. Caifa chinò il capo per significare che la domanda gli era chiara e rispose: il Sinedrio chiede di liberare Barabban. Procuratore sapeva bene che proprio così gli avrebbe risposto il sommo sacerdote, ma si era prefisso di mostrare che tale risposta lo sorprendeva. Confesso che questa risposta mi ha sorpreso, disse cortesemente il procuratore. Temo però ci sia un malinteso. Pilato si spiegò. Il potere romano non voleva affatto attentare ai diritti del potere spirituale locale. Il sommo sacerdote lo sapeva bene, ma in questo caso l'errore era palese e il potere romano, naturalmente, aveva tutto l'interesse a correggere questo errore. In effetti, i delitti di Barabban e Anosri non si potevano assolutamente paragonare quanto a gravità. Se il secondo, chiaramente un pazzo, era colpevole di pronunciare discorsi insensati che turbavano il popolo a Gerusalemme e in altre città locali, al primo erano imputate colpe assai più gravi. Non solo aveva ardito fare appelli diretti alla rivolta, ma aveva anche ucciso una guardia durante la cattura. Barabban era decisamente più pericoloso di Anosri. In forza di questi argomenti, il procuratore chiedeva al sommo sacerdote di rivedere la sua decisione e liberare il meno pericoloso dei due condannati, cioè senza dubbio Anosri. E dunque? Caifa guardò Pilato diritto negli occhi e disse con voce sommessa ma decisa che il Sinedrio aveva esaminato attentamente il caso e dichiarava per la seconda volta che intendeva liberare Barabban. E come? Anche dopo il mio intervento, l'intervento di colui che per bocca del quale parla il potere di Roma, sommo sacerdote, ripetilo per la terza volta. E per la terza volta dichiaro che liberiamo Barabban, disse piano Caifa. Tutto era finito e non c'era più nulla da dire. Anosri se ne andava per sempre e più nessuno ormai poteva guarire i dolori tremendi, perfidi del procuratore. Contro di essi non c'era alcun rimedio che la morte. Ma non fu questo il pensiero che colpì Pilato in quel momento. La stessa incomprensibile angoscia che già l'aveva assalito sulla terrazza penetrò tutto il suo essere. Cercò subito di spiegarsela e questa spiegazione era strana. Al procuratore parve confusamente di non aver detto tutto al condannato, o forse di non averlo ascoltato fino in fondo. Pilato scacciò questo pensiero che volò via in un attimo, così come era venuto. Volò via, ma l'angoscia restò inspiegata, poiché non poteva certo spiegarla quell'altro breve pensiero accesosi come un lampo e subito spentosi. L'immortalità è giunta, l'immortalità. Ma per chi era giunta l'immortalità? E questo il procuratore non lo capiva, ma il pensiero di questa misteriosa immortalità lo fece rabbrividire sotto il sole cocente. Bene, disse Pilato, e così sia. Si voltò dall'altra parte, gettò uno sguardo sul mondo a lui visibile e si stupì del mutamento avvenuto. Era sparito il cespuglio carico di rose, erano spariti i cipressi che orlavano la terrazza superiore e il melograno e la statua bianca nel verde e il verde stesso. Al posto di tutto questo era emersa una macchia purpurea in cui ondeggiavano delle alghe che andavano chissà dove trasportando con sé lo stesso Pilato. Ora lo trascinava, soffocandolo e bruciandolo, la più terribile delle ire, l'ira dell'impotenza. «Soffoco!» proferì Pilato. «Soffoco!» Con la mano fredda e sudata si strappò dal collo il fermaglio del mantello che cadde sulla sabbia. «È afoso oggi. C'è un temporale da qualche parte?» osservò Caifa, senza staccare gli occhi dal volto arrossato del procuratore e prevedendo tutti i supplizi che ancora lo attendevano. «Oh, com'è terribile il mese di Nisan quest'anno!» «No», disse Pilato, «non è per l'afa. Mi sento soffocare con te, Caifa». E stringendo gli occhi, Pilato sorrise e aggiunse: «Stai attento, sommo sacerdote!» «Oh, che sento, procuratore!» rispose dignitoso e calmo Caifa. «Tu mi minacci dopo che è stata pronunciata una sentenza che ha avuto la tua stessa conferma! E com'è possibile? Siamo abituati che il procuratore romano pesi bene le parole prima di parlare!» «E se qualcuno ci sentisse, egemone?» Pilato, scoprendo i denti, abbozzò un sorriso. «Oh, che dici, sommo sacerdote? Chi può sentirci qui adesso? Somiglio forse a quel giovane, puro folle vagabondo, che oggi giustizieranno? Sono forse un bambino, Caifa? So quello che dico, e dove lo dico? Il giardino è circondato, il palazzo è circondato, così che neppure un topo passerebbe da una fessura. Sappi che ora innanzi, sommo sacerdote, tu non avrai più pace, né tu né il tuo popolo!» E Pilato indicò lontano a destra, là dove in alto sfolgorava il tempio. «E te lo dico io, Ponzio Pilato, cavaliere Lancia d'Oro!» Caifa rispose impassibile: lo so. Il popolo di Giudea sa che tu lo odi di un odio feroce e che gli causerai molte tribolazioni, ma non riuscirai a distruggerlo. Dio lo proteggerà, ci ascolterà l'onnipotente Cesare e ci difenderà dall'oppressore Pilato.» «Oh no!» esclamò Pilato, e ad ogni parola si sentiva più leggero. Non doveva più fingere, non doveva più soppesare le parole. «Troppo ti sei lagnato di me con Cesare, ed ora è giunto alla mia ora, Caifa! Adesso sarò io a far volare la notizia, e non all'allegato di Antiochia, non a Roma, ma direttamente a Capri, all'imperatore in persona, la notizia che a Gerusalem salvate dalla morte noti rivoltosi, e allora non con l'acqua della piscina di Salomone, come volevo fare per il vostro bene, disseterò Gerusalem, non con l'acqua. Ricordati come ho dovuto per colpa vostra togliere dalle mura gli scudi con i monogrammi imperiali e spostare le truppe. Mi è toccato venire di persona a vedere cosa stava succedendo qui da voi. Ricorda la mia parola, sommo sacerdote. Non vedrai più soltanto una coorte a Gerusalemme. No, giungerà sotto le mura della città l'intera legione. Arriverà la cavalleria araba. E allora sentirai amari pianti e gemiti. Allora ti ricorderai di aver salvato Barabban e ti pentirai di aver mandato a morte un filosofo che predicava la pace.» Il volto del sommo sacerdote si coprì di macchie. I suoi occhi ardevano, ma sorriva. Scoprendo i denti, rispose: credi davvero, procuratore, a quello che tu stai dicendo? No, non ci credi. Non pace, non pace ha portato quel fascinatore di folle a Gerusalemme, e tu lo capisci benissimo. Tu lo volevi rilasciare perché oltraggiasse la fede e sobillasse il popolo e lo conducesse sotto le spade romane. Ma io, sommo sacerdote della Giudea, finché avrò vita, non lascerò profanare la fede e difenderò il mio popolo. Senti, Pilato! E qui Caifa alzò minacciosamente la mano. Ascolta, procuratore! Caifa tacque. E al procuratore parve ancora di sentire il fragore di un mare dilagato fino alle mura del giardino di Erode il Grande. Quel fragore si levava dal basso verso le gambe e contro il viso del procuratore, e alle sue spalle, laggiù, oltre le ali del palazzo, si udivano allarmanti segnali di tromba, il pesante calpestio di migliaia di piedi, lo strepito del ferro. E allora il procuratore capì che la fanteria romana stava già uscendo, obbedendo ai suoi ordini, diretta alla parata della morte, terribile per i ribelli e per i briganti. Senti, procuratore, disse piano il sommo sacerdote, non mi dirai che tutto questo lo ha provocato il miserabile ladrone Barabban? Il procuratore si asciugò la fronte magida e fredda col dorso della mano e guardò verso terra, e poi, socchiudendo gli occhi verso il cielo, vide che la sfera infuocata era quasi sopra la sua testa, mentre l'ombra di Caifa si era del tutto rattrappita vicino alla coda del leone, e disse piano e con indifferenza: è quasi mezzogiorno. Ci siamo lasciati trasportare dalla conversazione. E intanto bisogna andare avanti. Scusatosi cerimoniosamente con il sommo sacerdote, lo pregò di sedersi su una panca all'ombra della magnolia e ad aspettare che egli convocasse le altre persone necessarie per un'ultima breve consultazione. E desse ancora qualche disposizione relativa all'esecuzione. Caifa si inchinò cortesemente, portandosi la mano al cuore, e rimase nel giardino, mentre Pilato tornò nel colonnato. Benissimo, pensò tra sé il procuratore. Strinse di mano il fermaglio che il segretario aveva raccolto dalla sabbia e disse solennemente: è ora. Uscì dal giardino e fu salito su un ampio palco di pietra che dominava la piazza. Pilato, guardandosi attorno attraverso le palpebre socchiuse, si rese conto della situazione. Lo spazio che aveva appena percorso, cioè lo spazio dalle mura del palazzo al palco, era vuoto, mentre dinanzi a sé Pilato non vedeva più la piazza. La folla l'aveva inghiottita e si sarebbe riversata fin sul palco e in quello spazio sgombro se non l'avesse trattenuta una triplice fila di soldati. E così Pilato salì sul palco, stringendo meccanicamente in pugno l'inutile fermaglio e socchiudendo gli occhi. Il procuratore socchiudeva gli occhi non perché il sole l'abbagliasse, no, egli per qualche motivo non voleva vedere il gruppo dei condannati che, come sapeva benissimo, ora sarebbe stato condotto dietro di lui sul palco. Non appena il mantello bianco foderato di porpora affiorò in alto su quello scoglio di pietra che sovrastava la marea umana, contro le orecchie di Pilato, che non vedeva, si rinfranse un'onda sonora. Cominciò sommessa, sorta chissà dove, poi diventò simile ad un tuono e, prolungatasi per alcuni secondi, cominciò a decrescere. «Mi hanno visto!» pensò il procuratore. L'onda non si era ritirata del tutto quando inaspettatamente ricominciò a crescere e, ondeggiando, salì più in alto della prima, e sulla seconda onda, come su un cavallone ribolle la spuma, ribollivano fischi e isolati gemiti femminili distinguibili attraverso il fragore del tuono. «Li hanno condotti sul palco», pensò Pilato. «E i gemiti vengono dalle donne schiacciate quando la folla si è gettata in avanti». Egli attese qualche tempo, sapendo che nessuna forza può far tacere la folla finché non abbia sfogato tutto quello che le si è accumulato dentro e non si calmi da sola. E quando giunse questo momento, il procuratore alzò di colpo la mano destra e nella folla si spense l'ultimo rumore. Allora Pilato inspirò quanta più aria torrida poteva e gridò, e la sua voce strozzata volò su migliaia di teste. «In nome di Cesare imperatore!» Qui le sue orecchie furono più volte colpite da un ferreo grido scandito nelle coorti. Levando in alto le lance e le insegne, i soldati urlavano un terrificante «Viva Cesare! Viva Cesare!» Pilato alzò la testa e la immerse nel sole. Sotto le sue palpebre si accese una fiamma verde che gli arse il cervello, e sopra la folla volarono rauche parole aramaiche. «Quattro malfattori arrestati a Gerusalemme per omicidio, istigazione alla rivolta e oltraggio alle leggi e alla fede, sono condannati a una morte ignominiosa, la crocifissione. E l'esecuzione avrà luogo fra poco sul Golgota. I nomi dei malfattori sono Dismas, Estas, Barabban e Anosri. Eccoli davanti a voi». Pilato indicò con la mano destra, senza vedere alcuno dei malfattori, ma sapendo che erano proprio là dove dovevano essere. La folla rispose con un lungo boato, come di sorpresa o di sollievo. E quando questo fu spento, Pilato riprese: «Ma giustiziati ne saranno solo tre, poiché secondo la legge e la consuetudine, in onore delle festività della Pasqua, a uno dei condannati scelto dal Sinedrio minore, confermato dal potere di Roma, il magnanimo Cesare imperatore fa grazia della ignobile vita». Pilato gridava queste parole e intanto ascoltava come al boato subentrava un grande silenzio. Ora né un sospiro né un fruscio giungeva alle sue orecchie, e ci fu persino un attimo in cui Pilato ebbe la sensazione che tutto intorno fosse svanito. La città che odiava era morta e lui era solo, bruciato dai raggi perpendicolari, col viso fisso al cielo. Pilato mantenne ancora il silenzio e poi cominciò a urlare: «In nome di colui che ora sarà liberato sotto i vostri occhi è...» E fece un'altra pausa, trattenendo il nome, controllando se avesse detto tutto, poiché sapeva che la città morta sarebbe risorta dopo l'annuncio del nome del fortunato e non si sarebbero più sentite altre parole. È tutto, disse dentro di sé Pilato, è tutto. Adesso il nome. E rotolando le R sulla città silenziosa, gridò: Rabbè. Qui gli parve che il sole, squillando, defragasse sopra di lui e gli inondasse di fuoco le orecchie. In questo fuoco tumultuavano ruggiti, strilli, gemiti, risate e fischi. Pilato si voltò e attraversò il palco, attento a non inciampare. Sapeva che adesso alle sue spalle sul palco grandinavano monete di bronzo e datteri, che nella folla ululante molti, accalcandosi, montavano sulle spalle dei vicini per vedere coi propri occhi il miracolo: un uomo che era già fra le braccia della morte e che ne era stato strappato, per vedere i legionari che gli toglievano le carde, causandogli involontariamente un dolore lancinante alle braccia slogate durante l'interrogatorio, e l'uomo che continuava a sorridere con smorfie e gemiti di un sorriso assurdo e folle. Sapeva che in quello stesso momento la scorta già stava conducendo verso i gradini laterali i tre con le mani legate per farli scendere sulla strada che portava ad Occidente, fuori città, al Golgota. E solo quando si trovò dietro al palco, dall'altra parte, Pilato aprì gli occhi, sapendo che adesso era al sicuro. Ormai non poteva più vedere i condannati. Gli giunse un tamburellante, stridente scalpitare di cavalli sempre più vicini e una tromba che gridava un segnale rapido e allegro. La coorte alaria di cavalleria, allungando progressivamente il trotto, volò nella piazza per attraversarla in diagonale, evitando la massa del popolo, e galoppare per la via più breve, un vicolo sotto un muro ricoperto di vite, verso il Golgota. Volando al trotto accanto a Pilato, il comandante dell'alaria, un siriano piccolo come un ragazzino, scuro come un mulatto, gettò un grido acuto ed estrasse la spada dal fodero. Il focoso Morello, madido di sudore, scartò, si impennò e, ringuainata la spada, il comandante sferzò il cavallo sul collo, lo domò e si slanciò nel vicolo passando al galoppo. Dietro di lui, a tre, volarono i cavalieri in un nugolo di polvere, saltellarono le punte delle leggere lance di bambù, accanto al procuratore sfrecciarono volti che parevano ancor più bruni sotto i turbanti bianchi, con denti scintillanti in allegri ghigni. Sollevando la polvere fino al cielo, l'alaria irruppe nel vicolo e per ultimo passò accanto a Pilato un soldato che portava una tromba sfolgorante di sole dietro le spalle. Proteggendosi col braccio dalla polvere e facendo una smorfia scontenta, Pilato proseguì dirigendosi verso il portone del giardino del palazzo, e al suo seguito si mossero il legato, il segretario e la scorta. Erano circa le 10 del mattino.